Alla festa di Gigi, quanta gente che ci sta. Tante auto parcheggiate, pure alcune un po' voltate, non c'è manco un motorino. Alla festa di Gigi, ci si arriva anche il pullman. Ma io son venuto a piedi, sono partito l'altro ieri, mo sono stanco e camerà. Alla festa di Gigi, quanto vino che ci sta. Pane e mozzarella, mortadella e mozzarella, mozzarella volontà. Due zucchine araganate, tre orecchiette strascinate, quattro cavoli e patate, cinque uova, sei frittate, sette, otto, ne ho mangiate già, melanzane a volontà. E voglio bene assai, tu non fuggire mai, e no, posso mai mangiare, no. Alla festa di Gigi, c'era Fabio col violino, c'era Pino al mandolin, c'era Oronzo Mannarini alla batteria Colin. Alla festa di Gigi, quanta gente che ci sta. E chi non c'è stato, forse prima se n'è andato e chissà se tornerà. Alla festa di Gigi, mi hanno chiesto una cartina. E da una che gli ho dato il pacchetto m'ha svuotato e chissà se fumerò. Una mazzurra, due ballate, 34 tamuriate, 5 poche, 6 sbagliate, 7 ottave, terzinate, 900 pugni e sai che più, tarantelle e putipù. E voglio bene assai, tu non fuggire mai. Alla festa di Gigi, quando il sole è sorto già. Quando ognuno torna a casa che si è rotta la capasa e con l'auto se ne va. Io che sono a piedi, anche se tu non ci credi, i miei calli tu li vedi, non son bolle di sapone, ma son palli di cannone che mi danno il tormentone. Non so toro né leone, ma sono nato un giovedì. Son rimasto solo, tutti quanti hanno preso il volo. Qui si esercita il mio hobby, questi faccio poppi. Sono solo senza la dolce metà. La metà. Quasi quasi resto qua. E voglio bene assai.